trasmettiamo Proxy Bar. Proxy Bar. Proxy Bar. L'after hour sulle applicazioni e sui contenuti della rete che migliorano la qualità della vita. In studio Antonio Pavolini e Daniela Apollonio. Solo su Radio Imago. Buonasera a tutti da Antonio Pavolini, benvenuti a Proxy Bar, benvenuta Daniela Apollonio, come Ciao, stai? Ciao Antonio, tutto bene, voi? Non c'è male, non questo c'è male. Questo plurale maiestatis, tu e tutto il tuo staff che riempite questo palinsesto. Sì, siamo io, Antonio Pavolini, Antonio Content, insomma siamo in tanti, cerchiamo di non litigare. Di sì, mettere... Dunque, è una puntata... Diciamo forse torniamo un po' nel nostro mondo, il mondo tecnologico, parliamo con gli addetti ai lavori, parliamo agli addetti ai lavori, ma anche a tante persone interessate sulle tematiche del web 2.0, del social networking, e parliamo forse di quello che si candida ad essere il cannibale di tutti i social network, Facebook. Ne parliamo con un ospite sicuramente preparato sul tema, e ci sarà un po' di carne al fuoco, parleremo di issue tecnologiche, visto che è una persona molto aggiornata funzionalmente per quello che fa, su tutto quello che succede nel mondo della tecnologia, e quindi cominciamo. Angel and I have been Facebook friends for 5 months now. Yesterday was our anniversary and I poked her twice. It was wild. I've never even met this guy Walter in real life. And he just keeps messaging me on Facebook, like poking me and sending wall postings. I don't even know him. It's not cute at all. Sometimes I'll just wake up at 3 a.m. and poke her. Poke, poke, poke. Hey, Angela, poke, poke, poke. Why don't you message me back? Poke, poke, poke. Hey, bitch, wake up, Angela. But what the hell does it mean to poke someone anyway? Look, here's the thing. I don't care if she doesn't poke back. I don't care because I'm gonna keep poking. Angela, do you hear it? I'm gonna keep poking. Can you please make it stop? Please? It's really creepy. Angela, just poke back. Please. Look, I just love you, alright? Facebook, not you, Angela. Thank you, Facebook. Thank you, Facebook. Please, let Facebook change and take over your life. Allora, vedi cosa può succedere su Facebook, Daniela? Sì, no, sono allibita, veramente. Cosa non si inventano per lanciare un prodotto? Pazzesco. Sì, questo è quello che loro chiamano un infomercial. E intanto dovremmo avere in linea Christian Conti. Ciao Christian, ci senti? Ciao, buonasera. Buonasera. Allora, Christian è, nell'ordine, un esperto di social networking, di web 2.0. Ha fatto tutta una serie di apparizioni nei vari barcamp, dove i suoi interventi sono stati tra i più seguiti, e soprattutto è uno degli autori di un blog che è un vero e proprio punto di riferimento su queste tematiche, che si chiama downloadblog.it. Buonasera Christian. Buonasera Antonio. Ciao Christian. E Daniela. Sì, ciao, benvenuto. Grazie. Allora, noi in queste settimane abbiamo assistito ad una crescita impetuosa di Facebook. C'è questo report di Nielsen Net Ratings sul traffico di agosto 2007 che lo dà in crescita annuale del 117% ed è arrivato a quota 19 milioni di visitatori unici. Ci sono dei social network che crescono anche di più, come LinkedIn, che è abbastanza simile, però ha un profilo molto più professionale. Però indubbiamente nel mondo così degli addetti ai lavori viene ritenuto, diciamo, l'astro nascente, forse siamo in cima all'hype per quanto riguarda Facebook. Secondo te quali sono i punti di forza di questa piattaforma? I punti di forza di Facebook sono essenzialmente quelli che lo costituiscono. Cioè, in pratica, la sua capacità di mettere in relazione le persone per gruppi sociali. Cioè, Facebook è nato come servizio per mettere in relazione gli studenti di Harvard, e da lì è cresciuto. E quindi la sua struttura, diciamo, che permette appunto di mettere in relazione, di far comunicare gli studenti, e poi è cresciuta fino a costituire poi gruppi di livello più alto, quindi gruppi per interesse e alla fine per livello geografico, e quindi credo che il suo punto di forza sia proprio quello di creare relazioni per elementi ben specifici, e quindi non sono diciamo relazioni fittizie come ad esempio avviene su MySpace, ma sono relazioni che hanno diciamo un peso maggiore. Correggimi se sbaglio, Christian, forse possiamo dire che MySpace è l'estremo delle leve emotive, no? Dove il contatto accade attraverso che so, la musica che fa da collante o anche l'attrazione fisica, perché ci sono queste fotografie che sono molto importanti, mentre su Facebook le fotografie del soggetto, insomma, ce ne sono un po' di meno. E poi all'altro estremo c'è LinkedIn, dove semplicemente il rapporto è professionale, anzi tende quasi a migliorare la condizione professionale dell'utente. In mezzo, che coglie i vantaggi di entrambe le piattaforme, c'è Facebook, che in più ha anche quest'altra caratteristica molto importante, che è quella di accettare, diciamo così, delle applicazioni generate da terze parti. Ci spieghi esattamente come funziona questa cosa? Sì, riprendendo la parte che con cui hai cominciato, secondo me appunto la forza di Facebook sta anche nella capacità di essere riuscito ad aprirsi ad un certo momento a quello che è tutto il mondo esterno, quello accademico, perché inizialmente era limitato unicamente agli studenti, proprio grazie alla limitazione sulla email che permetteva la registrazione. E dall'altra parte Facebook sta cercando di rubare un po' la piazza a LinkedIn, cercando anche di darsi una connotazione professionale, e questo lo sta facendo grazie anche appunto a questa nuova novità che è stata introdotta poco tempo fa, che in pratica trasforma Facebook in una piattaforma per applicazioni. Cosa consiste questo? In pratica è stato creato un sistema, un linguaggio molto semplice per creare delle piccole applicazioni, cioè in pratica dei pezzi di codice da poter aggiungere alla propria pagina di Facebook, che in pratica dialogano con un altro servizio. Faccio un esempio, un servizio come Last.fm, che permette di ascoltare musica a seconda di quelli che sono i propri interessi, ha creato ad esempio un'applicazione che permette di pubblicare sul proprio profilo di Facebook queste informazioni e renderle accessibili agli altri, a tal punto che oggigiorno una qualsiasi startup non si può permettere di non avere un'applicazione per Facebook, perché comporta un numero enorme di utenti a cui fa riferimento, diciamo. Ecco, forse l'unico elemento che mancava in Facebook per farne un gigante, in qualche modo, era il Messenger, in sostanza un sistema per scambiare messaggi rapidi tra gli utenti. Adesso anche Facebook sta per svilupparlo. La domanda che ti faccio è: il Messenger di Facebook può spaventare i principali sistemi di messaging che ci sono in giro, non tanto quello di MySpace, ma per esempio i vari Google Talk, i vari MSN Messenger e così via? Secondo me quelli che devono avere più paura in questo momento sono quelli che stanno cercando più di mantenere il proprio status quo, cioè quelli che attualmente non si aprono agli altri. Perché attualmente è sempre più sentita l'esigenza di poter comunicare tutti su una stessa piattaforma, mentre ci si ritrova a dover avere magari più sistemi di messaging installati, oppure utilizzare un servizio web che permette appunto di saltare questa incompatibilità. Secondo me Facebook potrebbe avere la, diciamo, giocare questo ruolo di pacificatore proprio per la sua capacità di essere riuscito ad attrarre così tanti utenti. I numeri di Facebook, il numero di utenti è impressionante. Sì, siamo arrivati, se non sbaglio, sì, a 19 milioni di visitatori unici e un numero di pagine visitate pari a 15,7 miliardi. E questi sono numeri importanti. C'è Sergio Maestrello che ha scritto questo libro che viene sempre citato, che si chiama La parte abitata della rete. Devo dire, è un libro molto, molto interessante, uscito per i tipi, se non sbaglio, di Apogeo. Fece una profezia in questo libro. A marzo disse in sostanza che un giorno avremo una sola password e un solo user ID per entrare in tutti i principali servizi di internet, è chiaramente una cosa che tutti aspettiamo con ansia, perché io ho seri problemi a ricordarmi sempre login e password. E a questo punto potremmo anche immaginare che qualcuno decida di candidarsi a fare da grande aggregatore di tutti quanti. Facebook, secondo te, ha i numeri, le potenzialità per diventarlo? Sinceramente non lo so, perché attualmente la questione sul, diciamo, la possibilità di autenticazione unica è abbastanza dibattuta. Il single sign-on. Ad esempio, il single sign-on. Sì. Quello che è l'esperimento attualmente più innovativo per certi versi, che è OpenID, che in pratica permette con una singola registrazione di poter accedere e registrarsi, cosa ancora più importante, ai diversi servizi, è attualmente poco utilizzato, diciamo alcuni servizi minori lo utilizzano. Tutti gli altri naturalmente cercano di mantenere legati gli utenti, così fa Google come Microsoft o Yahoo. Facebook per certi versi io non lo vedo sinceramente come un antagonista così diverso dagli altri, a meno che appunto non intervenga in questa discussione un elemento nuovo, cioè la capacità di aprirsi agli altri veramente, che a questo punto è sentito come necessario, quasi indispensabile, perché oramai il numero di servizi a cui si accede quotidianamente, a meno per chi fa un uso intensivo della rete, è molto alto, e il rischio di doversi trovare con password simili e quindi facilmente bucabili, certo, è alto. Allora Cristian, noi adesso mandiamo un brano musicale, nel frattempo penso che ti richiameremo, perché la qualità della linea del telefono non è ottima, magari avremo più fortuna con la prossima telefonata. Vabbè. Va bene? Ciao. Thank you. anche appunto l'unica che si salvava da il silenzio tra virgolette di ieri, in cui appunto si parlava delle intenzioni di Microsoft verso Facebook. In realtà più volte abbiamo raccontato di come Facebook sia davvero ambito da molti e da tempo, mentre Mark Zuckerberg, 23 anni, fondatore di Facebook, non intende ancora venderlo, e per adesso i numeri gli danno ragione, perché sta continuando a crescere quanto di iscritti e a numero e accessi e pagine viste. E Massimo Sileri, appunto, sul Corriere della Sera di ieri parla innanzitutto di quando Mark Zuckerberg rifiutò 1 miliardo da Yahoo, poi quando girarono delle voci mai confermate di un'offerta da 2 miliardi da Google, ora per Facebook la partita è da 10 miliardi di dollari, quindi in questo caso aspettare ha fatto bene a Facebook. E sempre sui social network, sul Sole 24. Allora, Cristian, abbiamo sentito un brano della rassegna stampa curata da Antonio Sofi per Apogeo Online, che si chiama Quinta di Copertina, sempre aggiornatissima, in cui veniva raccontato questo episodio di questo Zuckerberg, che è il grande boss di Facebook, che rifiuta... Grande, 23 anni. Sì, no, grande dal punto di vista della visione, se permetti, anche della lungimiranza, perché quando aveva accettato un'offerta, aveva rifiutato un'offerta da 1 miliardo di dollari, tutti l'abbiamo preso per matto. Vi ricordate che anche MySpace era stata ceduta più o meno per quella cifra, e adesso gli è arrivata invece un'offerta da 10 miliardi e lui continua a tenersi questa stretta, questa sua creazione. Quindi secondo te quanto può valere, Cristian? Lo so che questo è un gioco un po' buffo, noi non siamo addetti ai lavori, però insomma ci proviamo. Beh, ti dico, la visione di Zuckerberg certamente assomiglia un po' a quella di Brin e Page di Google, quando all'inizio ricevettero un'offerta da Yahoo per acquistare il loro prototipo di motore di ricerca, che era veramente all'inizio, sappiamo poi com'è finita. Zuckerberg ha rifiutato, oltre all'offerta di Yahoo, anche un'offerta di Viacom, e adesso questa quotazione di 10 miliardi di dollari nasce da questa offerta di Microsoft, che ne vorrebbe acquistare il 5%. Ah, ecco, quindi diciamo si parla di un'offerta comunque per una quota minima. Certo. Che non è di 10 miliardi di dollari, però. Diciamo che il 5% viene valutato 500 milioni, 500 milioni di dollari, per cui... Sì, no, non sono bruscolini. Senti, ma come spieghi questa smania che hanno i grandi, diciamo, tycoon, padroni del vapore di internet, di mettere le mani su un social network non sviluppato da loro, cioè qualcuno che ha già un enorme portafoglio di utenti, non hanno voglia di rischiare a metterne uno in piedi uno proprio? Cioè, come spieghi questo tipo di scorciatoia? Per esempio, è notizia di ieri, un'intervista a Steve Ballmer di Microsoft, che in pratica ha definito Facebook come qualcosa che un po' come MySpace, 2 anni fa MySpace era all'apice e adesso sta perdendo nei confronti di Facebook, e Facebook potrebbe fare la stessa fine nel giro di 2 anni. Molto furbo Steve Ballmer. Facebook è una cosa che si potrebbe realizzare nel giro di 1 anno, insomma, certo. A livello di programmazione. La cosa però che sorprende un po' è che in tutto questo parlare di social network, i tre grandi, cioè Microsoft, Google e Yahoo, in realtà non hanno un vero social network nel loro portafoglio, a parte Google, che ha Orkut, ma è veramente insignificante a livello nordamericano ed europeo. Google ha YouTube, ma è una cosa più particolare. Certo. E quindi chiaramente interessa, perché visto che i grandi si stanno tutti muovendo nell'ordine del mercato della pubblicità, le grandi acquisizioni ultimamente sono state anche sulle società che fanno pubblicità su internet e che la raccolgono, sappiamo che Facebook attualmente sta in piedi grazie a grandi introiti di pubblicità che attualmente sono forniti da Microsoft, quindi di per sé loro pensano che sia un viatico per veicolare molta pubblicità, cosa che secondo me è abbastanza complesso, perché chi è su Facebook non cerca tante cose, cerca molto semplicemente di entrare in contatto e comunicare con altre persone, e forse lì la pubblicità sarebbe sentita veramente come un'invasione. Sì, come un'invasione. Ecco, io mentre parlavi mi sono reso conto di aver detto una castroneria poco fa. Non è stata nei confronti di MySpace l'offerta da 1 miliardo e passa, ma era nei confronti di YouTube, e parlavo appunto dell'accordo Google-YouTube, me ne scuso con gli interessati, no. E anche con gli ascoltatori. Dunque, a questo punto abbiamo introdotto il tema della pubblicità su questi social network, usciamo un po' dal argomento principale della puntata e parliamo proprio di questa approfittiamo del fatto che sei qui per chiederti delle opinioni su alcuni fatti di cui si discute molto anche sul tuo blog. Da qualche giorno YouTube offre la possibilità di inserire annunci contestuali, gli annunci contestuali pubblicitari di Google AdSense. Non potevamo immaginare chiaramente che Google avesse pagato questi 1,65 miliardi di dollari per YouTube senza sperare di guadagnarci. Non ci saranno a quanto pare interruzioni pubblicitarie, più semplicemente annunci pertinenti nella parte alta del player. Questa novità secondo te rivoluzionerà il mercato pubblicitario dei video come AdSense ha già fatto in qualche modo sui blog? Ma dipende tutto poi a questo punto da come si realizzerà questa cosa, perché se la pubblicità ad esempio di AdSense viene veicolata in base a quello che è il contenuto della pagina, per quello che riguarda i video è molto più complesso, perché è difficile capire per un sistema automatico come quello che viene fatto da un software, capire qual è il contenuto del video e quindi veicolare la pubblicità adeguata. Quindi sicuramente questo sarà un aspetto che complicherà molto la cosa, ma non sono sicuro che troveranno un sistema. Per quello che riguarda appunto un po' l'invasione della pubblicità nei video, i primi commenti sono stati molto negativi. D'altro canto l'evoluzione del web sta andando verso quella direzione lì, cioè la possibilità oggi che offre la banda larga di veicolare prima l'audio e adesso il video ha una buona qualità, permette appunto anche questa cosa qui, cioè per certi versi l'economia del web deve stare in piedi con qualcosa, quindi la pubblicità è il sistema attualmente che è visto come sostentatore. Beh, cioè anche diciamo ha un elemento virtuoso, pensiamo per esempio al ruolo che sta avendo la pubblicità nella decisione di alcuni quotidiani che avevano gli archivi a pagamento come il New York Times, sì, di scardinare questo vecchio modello di business del pagamento degli articoli che erano sugli archivi. Adesso il New York Times ha deciso di aprire completamente gratuitamente l'accesso all'archivio almeno dopo il 1986, e proprio perché l'ufficio marketing ha fatto due conti, ha calcolato che le entrate provenienti dagli abbonamenti, questo servizio che si chiamava Times Select, erano inferiori a quelle previste dagli introiti pubblicitari. Sì, non a caso la dichiarazione che aveva fatto, se non sbaglio, il presidente Schiller, sì, del New York Times, che aveva detto: io non so se tra 5 anni ci sarà più il New York Times di carta, sicuramente attualmente guadagniamo di più con la versione web. Da una parte certamente c'è una visione diciamo più lungimirante per quello che riguarda il futuro dell'informazione sul web, e dall'altra secondo me c'è anche un altro aspetto, cioè da tempo esisteva un servizio che permetteva di bypassare la necessità di registrarsi per vedere gli articoli, che si chiamava Bug Me Not, e questo certamente diciamo inficiava questa. E non è la prima volta che l'incapacità dei grandi editori di controllare la tecnologia li obbliga a delle scelte radicali. Sì. Dunque, adesso parliamo un po' di questo vostro grande progetto che si chiama Download Blog, che fa parte poi di un progetto ancora più articolato che si chiama blogo.it. Ci spieghi esattamente che cos'è il network blogo.it e che cos'è questo sito blog di informazione che si chiama Download Blog? Sì, blogo.it è in sostanza un network di blog, quello che in America chiamano nano publishing, che hanno un taglio più tematico, ed affrontano con la struttura del blog, cioè con un'informazione che non viene impaginata, ma semplicemente come nel blog l'articolo più recente va in testa agli altri, affrontare diverse tematiche. È nato dall'idea di quattro ragazzi di Milano nel 2004 e dai quattro blog iniziali attualmente siamo ad un numero superiore ai 30, non mi ricordo più perché. Ecco, ogni tanto ne viene lanciato uno nuovo. All'inizio erano molto verticali, no? Per specialisti, c'era, che so, quello sulla musica, quello sulle auto, eccetera. Adesso però cominciano a fiorire dei blog orizzontali come Happy Blog, che ha contenuti, diciamo, di intrattenimento leggero, potremmo dire, addirittura uno tutto sul gossip. È un cambio di rotta, secondo te, rispetto a quell'inizio molto, molto più a compartimenti stagni? Per certi versi no, perché quello che è successo, per esempio, con Download Blog è stato che, in pratica, se prima un blog appena lanciato aveva necessità di crescere, ad un certo punto il numero di argomenti diventa talmente ampio che si rischia comunque di avere talmente tante notizie possibili da comunicare che si deve comunque fare una scelta. Ed allora, per esempio, quando su Download Blog si è reso conto che era difficile gestire tutta una parte di informazioni che riguardavano Windows e i servizi web insieme a Linux, si è spostato tutta la parte di Linux su un altro blog dedicato che aveva anche una sua identità. Quello, per esempio, di Happy Blog, che riguarda tutto il fenomeno dei video virali, è una cosa che in pratica è stata separata da altri blog su cui facevano alcune comparse, mentre attualmente è un interesse abbastanza evidente quello verso i video virali, e quindi la ricerca è stata tutta inserita in questo nuovo blog. Per certi versi, diciamo, la filosofia iniziale rimane. Senti, io avrei una domanda, come al solito, interessata per chiudere almeno le mie domande. Non so se Daniela, che mi fa sempre degli sguardi come del tipo adesso faccio una domanda cattiva, poi si trattiene. Ti vorrei chiedere, secondo te, perché a nessuno viene in mente di realizzare, come blog ha fatto con questi blog, diciamo così, professionali, anche un network di podcast professionali, un network di podcast, in sostanza di trasmissioni audio o video a tema, perché finora c'è una distinzione molto chiara tra i podcast che sono emanazione dei programmi televisivi o radiofonici ufficiali e i podcast cosiddetti amatoriali. In mezzo però non c'è niente. Noi, per esempio, su Download Blog abbiamo, fra i vari autori che ci lavorano, abbiamo pensato eventualmente di fare qualcosa come un podcast o un videocast, chiamiamolo. Sì. Però il problema è che questo richiede innanzitutto del tempo e anche un livello tecnico sufficientemente adeguato, perché certo, è ben diverso scrivere un articolo dal realizzare un podcast o un video con, diciamo, un minimo di competenza tecnica. E comporta via anche molto tempo. Va bene, d'accordo, io ci provo sempre, come puoi immaginare. No, Christian... Blogo ha provato con Teleblogo, con un format particolare che era in pratica seguiva quello di Rocket Boom, però dopo un anno questo si è visto che comportava veramente molto dispendio di tempo. E consideriamo che, nonostante tutto, nonostante si parli di nano publishing, di blog professionali, siamo ancora comunque nell'ambito, diciamo, amatoriale, perché comunque nessuno di noi vive grazie a questo. È proprio così. Il nostro sogno sarebbe appunto quello di vivere grazie a questo genere di cose. Allora, noi ti ringraziamo per il tuo tempo e per i tuoi aggiornamenti e diamo appuntamento anche a tutti gli ascoltatori su downloadblog.it, che risolve il problema di cercare le notizie spesso su 300 blog diversi, perché è quasi sempre in prima battuta il primo ad arrivare sulle notizie. Ti ringraziamo e andiamo avanti con il resto. Diamo appuntamento ai due bear camp di questo weekend a Roma, mi sembra carino. non so se ci sarai, Christian. Purtroppo ho saputo che non potrò esserci, dovevo essere a Bologna, ma esigenze familiari mi richiedono a casa. Va bene, d'accordo. Grazie ancora. Grazie, Christian. Grazie, buonasera. Latest at Facebook, I'm David Lawrence. Perhaps with the recent news coverage, the situation in Myanmar has received, it's not surprising that one of the most popular and fastest growing groups on Facebook is the U.S. Campaign for Burma. The group description explains, the United States Campaign for Burma is a U.S.-based membership organization dedicated to empowering grassroots activists around the world to bring about an end to the military dictatorship in Burma. Through public education, leadership development initiatives, conferences, and advocacy campaigns at local, national, and international levels, USCB works to empower Americans and Burmese dissidents in exile to promote freedom, democracy, and human rights in Burma and raise awareness about the egregious human rights violations committed by Burma's military regime. For more information, go to uscampaignforburma.org. Interessante, finalmente. E, ti dico, noi su Second Life la settimana scorsa abbiamo fatto grandissimi movimenti. Cioè, i social network funzionano anche in questa chiave di mobilitazione politica, perché abbiamo sentito cosa succede su Facebook con la Birmania, per chi non mastica completamente l'inglese. No, cioè, che, sì, lo so che il nostro pubblico è un po' particolare, quindi sono discorsi che non dovrei neanche fare, però in sostanza quello che veniva detto è che il gruppo che sta crescendo in modo più impetuoso in questo momento su Facebook è proprio quello della mobilitazione per i diritti civili in Birmania. In Second Life è successo lo stesso, catene umane di avatar che si sono collegati tra di loro creando delle file infinite, sit-in, una cosa veramente bella. Questo è poi c'è il vantaggio, l'aspetto che mi piace, che mentre i TG, no, dopo un paio di giorni non ne parlano più e quindi la gente comincia a togliersi penosamente questo, l'accetto rosso, mm-hmm. E invece sui social network le cose vanno avanti, certo. E questa è la differenza, è la voce. Perché non è una cosa che macina per forza, no? Che non è che bisogna stare sempre sulla notizia, certo. E poi ci sono gli archivi, ecco, infatti. Basta mettere la parolina su Google e via, c'è tutta la storia di quello che è successo. E infatti su questo volevo anche fare un intervento presto, proprio in uno di questi barcamp che si chiama, si intitola "Sui social network le bugie hanno le gambe corte ma hanno la coda lunga". La coda lunga. Senti, no, a parte gli scherzi, con questi giochi di parole, a me spiace non essere intervenuta sul bellissimo intervento di Christian, ma tu sai come io la veda. Sei sempre più scettica verso, sì, tutto ciò che è 2.0. Ma assolutamente sì, io mi registro, perché come detto ai lavori devo provarle le cose prima di, sì, sparare zero contro, e di tutte le cose, applicazioni alle quali mi sono sottoscritta, sono iscritta nell'ultimo anno, non ne uso uno. Ma questo credo che sia la migliore risposta a chi dice che queste trasmissioni sono appiattite nella celebrazione di queste applicazioni. In realtà noi cerchiamo di avere uno spirito molto critico. Anch'io trovo che ci sia molta spazzatura nel web 2.0. Però trovo anche che la pervasività di internet faccia sì che quei pochi gioielli che ci sono veramente da soli giustificano tutta questa rivoluzione. Per me questo 2.0, specialmente questa necessità di raggrupparsi in un gruppo, in una categoria, va esattamente contro le logiche di internet, dell'internet originale al quale sono abituata e cresciuta io. Perché io devo entrare in un gruppo, in una categoria, mettermi là dentro? Per quale motivo? Sono io che mi scelgo le persone per affinità, non perché abbiamo lo stesso interesse, tu mi piaci e io quindi condivido qualcosa con te. È veramente una follia. Sono poche purtroppo le applicazioni del web 2.0 che sembrano esaltare i motivi per cui internet è nata, e molte invece sono purtroppo le cose finte, così come cominciano a esserci anche purtroppo i bar camp finti, cosiddetti taroccati, i fake camp, di cui molti blogger cominciano a lamentarsi, giustamente, perché insomma anche lì era nato per incontrarsi seguendo alcune regole che sono l'opposto di una conferenza. Poi andiamo a vedere i programmi di alcuni sedicenti tali barcamp e scopriamo che sono conferenze in piena regola con il relatore e gli altri che stanno tutti a sentire, e anche questo è diventato purtroppo un marchio, cioè la gente si appropria dei marchi, dei termini e li stravolge. Cambiate le parole, cambiate un titolo per dire cose, ai concetti vecchi, tu lo sai, dal web 2.0 in poi secondo me è tutta fuffa. Beh, infatti c'è un famoso programma che si chiama Fuffa Aggregator, non so se lo conosci, è bellissimo. Dunque, abbiamo abolito la rubrica delle chicche, però io una piccola chicca la vorrei segnalare. Venerdì sono stato a visitare gli studi della nuova Net TV di Tommaso Tessarolo, che dopo averne discettato a lungo su libri, presentazioni altisonanti, catering, è un intervento anche qui, una intera rubrica a lui dedicata. Sì, poi anche le interviste, eccetera. Insomma, adesso comincia a farla la Net TV, la fa veramente, e la cosa buffa è che non è che usa internet solo come canale di distribuzione del segnale, come si è fatto finora. Internet la usa anche come strumento di produzione con Mogulus, come strumento di condivisione con vari sistemi, anche lì insomma bisogna andare a vedere questo blog che si chiama www.n3tv.it, scritto così, n3tv.it, perché ci sono tra l'altro anche dei programmi, secondo me, che fatti, devo dire, con pochi soldi, perché ovviamente sì, ci sono già degli sponsor, eccetera, ma non è che siano dei programmi hollywoodiani, però hanno delle trovate eccezionali. C'è questo show dal vivo da Berlino che si chiama L'Infame, se non sbaglio. Io l'ho visto ieri sera, sono rimasto folgorato, sembrava la Germania della Repubblica di Weimar, c'era questo clima artistico e decadente al tempo stesso, con queste band di rock indipendente che hanno fatto un live, secondo me, di ottimo livello, che quasi rivaleggia con i nostri. Senti, ma esistono degli archivi di tutto ciò che loro trasmettono o è solo fruibile via streaming? No, tutto diventa anche podcast, tutto, cioè ormai questo è dato per scontato, non è che uno manda in onda e poi le cose vengono perdute. Cioè, questo è... Il bello della diretta è anche questo. Purtroppo sì, le varie grezze che abbiamo fatto anche qui a Proxy Bar rimarranno per sempre. E adesso io credo che possiamo passare al guru. Sei su Radio Imago. Oh yeah. Entra nel sogno, ascolta l'immagine. Scusa, il guru di oggi, ho parlato prima che mi venisse aperto il microfono, lo faccio praticamente sempre. Il guru di stasera è Andrea Amodeo, che si occupa di varie cose in Adobe. In particolare io l'ho incontrato alla presentazione sempre del libro di Tessarolo, dove presentava questo nuovo progetto, questo nuovo player, Adobe Media Player. Poi a quei tempi aveva ancora il nome di progetto, che era Filo. Adesso credo che Andrea ce ne parlerà in questa intervista delle caratteristiche di questo player e perché si candida a diventare anche lui un piccolo cannibale della fruizione multimediale su internet. Guru Meditation. Guru Meditation. Guru Meditation. Allora, siamo qui con Andrea Amodeo di Adobe, che è uno degli sponsor della serata. Qual è il tuo ruolo in Adobe, Andrea? Io sono Business Developer Manager per tutta l'area video web di Adobe Italia. Ecco, abbiamo intravisto, diciamo, nel blog di Tommaso qualche anticipazione su questo nuovo media center di Adobe che si chiama Filo. E che praticamente ha un messaggio implicito, almeno questo è quello che ho colto io. Flash è la soluzione al problema della convergenza delle piattaforme per la Net TV, soprattutto per quanto riguarda i formati video, le esigenze di protezione dei contenuti e di valutazione anche di un eventuale investimento pubblicitario in ogni singolo contenuto. Che cosa vi fa pensare nel mare magnum di piattaforme per la Net TV che Filo sia la soluzione vincente? Allora, Filo è il nome in codice, è il nome, diciamo, di sviluppo di questo prodotto, che avrà il nome commerciale di Adobe Media Player. Adobe Media Player si vuole posizionare non insieme agli altri media player e non insieme agli altri sistemi di content management per contenuti video. Vuole essere una piattaforma che si posiziona a metà fra questi due mondi, quindi può permettere all'utente finale di vedere con tranquillità, di registrarsi con la logica di feed RSS a dei contenuti seriali, quindi ricevere automaticamente sul proprio computer o sul proprio televisore di casa i contenuti. La cosa interessante è che oltre a dare questa possibilità per l'utente finale, dà la possibilità a chi confeziona questi contenuti, a chi ha pagato i diritti di questi contenuti, di fare pubblicità all'interno del contenuto e intorno al contenuto. Quindi il modello di business di Adobe, che è come quello che l'ha sempre, come dire, portato avanti in questi 25 anni, è quello di dare un player gratuito all'utente finale e dare la possibilità a chi ha i contenuti di monetizzare questi contenuti. Secondo il libro di Tessarolo, che io ho letto negli scorsi giorni, è molto importante per avere una distribuzione non troppo onerosa di contenuti multimediali per quelle che sono le capacità della rete, che i lettori o quantomeno i formati abbiano disponibile un layer di trasporto peer-to-peer. Quando è che lo avremo anche su Flash? Sì, non posso andare nel dettaglio di quelle che sono le strategie di Adobe per quanto riguarda le proprie soluzioni tecnologiche. Sicuramente Adobe è attenta alle innovazioni e alle novità di questo mercato, e sicuramente nel prossimo futuro avremo qualche novità anche da questo punto di vista per quanto riguarda la piattaforma Adobe. Io vorrei chiudere con una domanda forse un po' personale, spero che Tommaso me la perdonerà. Abbiamo visto che i software professionali per il trattamento dell'audio, del video, audio editing, video editing, grazie anche e soprattutto al fenomeno dello user generated content, spesso sono ormai disponibili in rete anche sotto forma di software freeware, anche con progetti open source come Audacity, per esempio. In che cosa prodotti di altissimo livello Adobe come Audition, Premiere Elements e la popolarissima Creative Suite di Adobe, in che cosa si differenziano dai prodotti freeware open source che sono disponibili in questo momento in rete? Allora, c'è da dire che anche se Adobe è la terza software house mondiale e ho 25 anni di sviluppo, anche Adobe è attenta a queste nuove tendenze. Non a caso esisterà nel prossimo futuro una versione online di Premiere, Adobe Premiere Express ad esempio, che darà la possibilità di alzare quello che è la qualità dei contenuti generati dall'utente. Quindi il cambiamento sarà non più contenuti generati dall'utente semplicemente presi e uploadati su un sistema, ma dare la possibilità all'utente anche di fare un minimo, naturalmente in funzione di quelle che sono le potenzialità tecnologiche attuali, di editing online. Questo per appunto i contenuti generati dagli utenti. È indubbio che un'azienda che invece ha la necessità di fare del video editing, piuttosto che della gestione delle fotografie, piuttosto della gestione del documentale, tutte quegli ambienti in cui i software Adobe eccellono, ha la necessità di avere alle spalle un'azienda che li supporta e che continua a creare innovazione e valore intorno a quelli che sono i loro prodotti. Grazie Andrea. Grazie a te. Certo, l'inno nazionale dopo la presentazione di un prodotto americano è qualcosa. No, perché siccome siamo così anglofoni, anglofili in tutte le terminologie di questo mondo, è giusto poi che nei vari contributi audio ci sia questo tocco di nazionalismo che ci fa riscoprire le nostre radici. E non riusciamo proprio, Daniela, a contenerci nei 45 minuti. Io ci ho rinunciato. Abbiamo finito, sono già le 19:50 e non hai ancora salutato. No, non ho ancora salutato, c'è la sigla. E io a questo punto penso che finché non avremo, diciamo così, dei rigidi paletti dentro cui muoverci in questa radio, ancora ci prenderemo queste libertà. Poi un giorno il bello di avere una propria radio è questo, di poter sfrare liberamente. Abbiamo 15 minuti accademici, quindi noi fino alle 20. Mi vuoi raccontare la storia della tua vita, Daniela? No, 15 minuti è impossibile. E allora diamo appuntamento ai nostri ascoltatori alla settimana prossima. D'accordo. Arrivederci. A presto. Radio Imago ha presentato Proxy Bar di Antonio Pavolini e Daniela Apollonio.